Un oggetto per un ricordo particolare. Vetrerie del vivo in fondo a una strada che dal campaggio portava alla vetreria, in condizioni in cui disagiate in cui lavoravano, la fornace che fondeva il vetro, tutti all'aperto e con un caldo enorme. A quei tempi, nel 40, ecco che mi viene a mente. Una mattina, no, un pomeriggio, venne gli amici di mio povero babbo e mio babbo fece alla mia sorella. Mm-hmm. Dice, Gidiola, metti fuori un bicchierino, via, su, da c'è. Lei ne cascò due bicchierini. Oh, la tragedia. Perché mia sorella era pignola. Dice, guarda, non ti preoccupare, te lo fuori fare, te lo fuori fare. E infatti c'era un signore di Empoli, che però poi si è trasferito, che lavorava in vetreria e che faceva il maestro vetraio, ma non era per il titolo adatto. Infatti, cosa successe? A parte il bicchierino che loro fecero, eccetera, questo signore andò a Venezia. Andò a Venezia e diventò maestro, veramente maestro vetraio. Ha fatto degli oggetti. La fine del mondo. Anche i bicchieri, io mi ricordo che si andava da mio zio e ci dava un goccino di vino santo, ma era buono, però mi dava alla testa. Successo che mia madre, essendo paralizzata, e li regalò per le nozze di una persona cara a lei. E quindi niente, ecco, perché l'ho fatto affatti. Ho pagato solo il vetro, sì, poi l'ho decorato dopo l'orario, a stampaggio semiautomatico, sì, a mano però, con tracce di vite, senza uva, in bianco satinato. Sono stupendi sul vetro bianco e tracce di vite sopra, erano bellissimi. Sai, vari regali del matrimonio, ebbe anche dei bicchieri simili a questi e ce l'ho da tuttora, perché prima c'era l'abitudine di serbare. E quei bicchierini piccoli si offrivano quando veniva il dottore, il prete, il vinsanto, non fatti rossi però bianchi e tutti ricamati. Praticamente si teneva bene, era su la vetrina su alti, si tenevano, insomma, sono rimasti sempre senza due frati. La mia fonte di Baccaiano, questi là, i piccini, tutti colorati, verdi, rossi. Sicché dice, comunque sono sempre in famiglia, almeno resteranno per il tempo. La preso volentieri, come ha preso tutti i bicchieri, se la presi volentieri, quelli, te lo ricordo, sono bellissimi. Siamo insieme, uno prende un bicchiere, l'altro ne prende un altro. Dai, vogliamo farlo? Allora a cosa brindiamo? A noi. A noi. A noi. A noi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la